Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Indio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! Allora, quando sono le 22:07, per l'ultimo lunedì a quest'ora, questa è Radio Possum. Ciao a tutti e a tutte. Vabbè, spieghiamo per l'ultimo lunedì, non perché stiamo suicidando la trasmissione, ma... No, bensì abbiamo un nuovo spazio, finalmente possiamo riuscire a anticiparla di un'oretta, quindi da lunedì prossimo non ci sentirete più dalle 10 alle 11, ma bensì dalle 9 alle 10, quindi ricordatevi che per sentire questa fantastica trasmissione dovrete anticipare di un'oretta. Poi stiamo preparando anche tutto un nuovo palinsesto per le prossime puntate di approfondimenti vari, teorici ed eventuali, quindi vi preparatevi psicologicamente a doversi concentrare appunto dalle 9 almeno con concentrazione più alta per approfondire i temi dell'antispecismo, della liberazione animale e dell'ecologia, ecologia profonda, ecologia sociale, non so, vedremo. Tra l'altro forse lunedì prossimo anche la nuova sigla, attenzione. Invece oggi, oggi il vuoto. Oggi giusto perché e oggi è musica. Puntata. Festa. Vi raccontiamo solo cosa saranno le prossime trasmissioni che non abbiamo ancora preparato, però no. Abbiamo anche oggi una trasmissione molto ricca e molto importante. Di che cosa parliamo questa sera? Di che cosa parliamo? Questa sera parleremo con un attivista che ci parlerà della situazione dell'Indonesia, del Borneo. Tra l'altro, appunto, argomento che già abbiamo trattato in passate trasmissioni, e però appunto stasera ne parliamo con una persona che già abbiamo sentito, che conosce bene la situazione e che ci darà un attimo un aggiornamento su quello che sta avvenendo. Sì, possiamo ricordare che già l'avevamo sentita circa un anno fa, e almeno per capire che cosa è successo, come cosa è cambiato nell'ultimo anno. Va bene, dai, allora una canzone e poi siamo subito in onda. This brain flow that and we play. Ticket easy. to know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were, and her scars, or how she got them. As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping through the valleys of an aging face that this world has forgotten. Dopo qualche problema tecnico siamo riusciti a metterci in collegamento. Pronto, ci senti? Ecco, sì, scusate, ma sto in una casa che è pazzesca, cioè, c'è pochissimo campo. Adesso mi sono messa in un angolo, quindi adesso vi sento bene. Vai, tranquilla, tutto a posto. Senti, noi ci eravamo sentiti un annetto fa, però magari non tutti hanno sentito la trasmissione, quindi se magari ci vuoi fare una panoramica di introduzione su quella che è la situazione in Indonesia e poi in particolare nel Borneo, e poi magari entriamo anche nello specifico di quelli che sono gli aggiornamenti. Sì, ce ne sono, infatti, perché poi comunque mi sono ricordata, quindi sono successe un sacco di cose. Allora, vi faccio una piccola premessa per spiegare che zona del mondo è l'Indonesia. Quindi è una zona, diciamo, come isole vastissima, è l'1% delle terre emerse, ma che ospita una varietà infinita di specie, sia animali che vegetali. Cioè, praticamente il 12% dei mammiferi, di tutti i mammiferi del mondo, il 15% di tutti i rettili e anfibi e il 17% degli uccelli. Quindi è un tesoro inestimabile. Ci sono un sacco di specie gravemente minacciate, sono elefanti, orangutan, rinoceronti e tigre. Per esempio, i rinoceronti ne sono rimasti 60. Questi sono dati di un po' di tempo fa, quindi purtroppo credo. Pronto? Che sia... Sì, mi senti? Sì, sì, ti sentiamo, scusa. Ecco, ok. Vai, continua, scusa, c'è stato un problema. Ok, scusate, ma c'è poco campo. E quindi dicevo, appunto, di tigre addirittura, di rinoceronti ne sono rimasti 60, per esempio. E gli oranghi erano all'inizio del secolo circa 350.000, adesso siamo sulle poche migliaia. Tutto questo ovviamente a causa della presenza delle industrie in queste zone, soprattutto negli ultimi 50 anni. E quindi, ecco, la deforestazione in Indonesia adesso è al più alto tasso, dopo quello che è successo in Amazzonia, e essendo la terza foresta al mondo, la terza foresta come vastità dopo il Congo e l'Amazzonia, che è la prima, l'Indonesia, diciamo, negli ultimi 50 anni ha perso 40 milioni di ettari di foreste. Anzi no, 40 milioni dal 2000 a oggi, 70 milioni negli ultimi 50 anni. Quindi negli ultimi 20 anni, diciamo negli ultimi 10 anni è stata una devastazione esponenziale. Appunto, sia per l'industria cartaria che per l'industria dell'olio di palma, quindi si distruggono foreste per convertirle in piattagioni sia di acacia per la carta sia di palme da olio. E in realtà la situazione è più grave di quella che si sa, che si conosce. Anche perché io un po' navigando negli ultimi giorni, anche per vedere se c'erano aggiornamenti, ho trovato in un sito che si chiama Infomercanti Este delle cose veramente terrificanti su queste zone in via di sviluppo, e soprattutto in Indonesia appunto si dice che ancora ci sono 6 miliardi di dollari di investimenti da effettuare in questa zona, per cui ci sono 15 milioni di ettari di foreste già convertite, ma 30 milioni ancora da convertire, per cui in realtà quello che noi sappiamo adesso è un dato incompleto, quindi in via di peggioramento notevole, soprattutto per quanto riguarda per esempio le emissioni di CO2. Che poi la maggior parte di queste foreste vengono bruciate, perché per esempio per convertirle in piantagioni di palme non gli conviene stare lì a tagliare, vendere legname, bruciano e poi ripiantano le palme. E questo è più o meno la situazione generale, globale, sia della parte del Borneo, quindi dell'isola grande dell'Indonesia, che comprende 4 regioni che si chiamano Kalimantan, sia l'isola di Java e soprattutto Sumatra negli ultimi anni ha perso milioni di ettari. Ultimamente per esempio ho visto che c'è questa nuova azienda che si chiama Surya Mas Citta per Casa, e loro lavorano olio, quindi olio di palma. E loro hanno in 5 anni hanno convertito 23.000 ettari di foreste illegalmente, perché c'è una moratoria che vieta il taglio selvaggio, diciamo, però i governi vengono pagati da queste aziende e quindi vendono comunque illegalmente zone enormi di parchi protetti che poi vengono convertiti. Sì, c'è questa è la situazione. Sì, infatti come ce la racconti anche tu, appunto è una situazione in cui c'è una fortissima deforestazione che oltre a distruggere appunto aree di foresta porta anche a una distruzione di ecosistemi e quindi alla morte di moltissime specie animali che non hanno più l'approvvigionamento al cibo, non hanno più il loro habitat, e questo viene fatto esclusivamente per scopi commerciali, perché l'olio di palma è un grande commercio e anche l'industria della carta. E ci puoi dire quali sono le aziende che sono maggiormente implicate in questo tipo di sfruttamento? Allora guarda, fino a febbraio di quest'anno era una delle più grandi industrie, era al 10° posto nel mondo, era la Asia Pulp and Paper, APP, ed è un colosso cartario che si occupa anche ma marginalmente di olio di palma, ma soprattutto carta. Quest'anno, dopo boicottaggi da parte di tutte le multinazionali, le peggiori multinazionali del mondo, che non volevano più neanche loro i packaging, che li prendevano da loro carta, quindi no? E, insomma, alla fine anche la Disney li ha boicottati e loro si sono visti costretti a rivedere il loro comportamento, e quindi a febbraio hanno ufficialmente annunciato di aver rinunciato alla deforestazione e quindi si sono dedicati adesso alla salvaguardia di quel poco che negli ultimi 20 anni hanno devastato, cioè hanno fatto delle cose veramente inenarrabili in Indonesia. ma adesso si stanno ripulendo e quindi si sono affiancati a un'associazione che si chiama OFI, Orangutan Foundation International, per appunto sistemare quelle aree, quelle poche aree che sono rimaste del Kalimantan, quindi nella parte centrale del Borneo. E quindi ecco, questa è la situazione loro. Dopo che però, capisci, cioè, la situazione non è che l'abbiano fatto per motivi etici, l'hanno fatto perché non vendevano più in Occidente i loro prodotti. È quello che si chiama adesso, che stanno facendo moltissime aziende, il greenwashing, no? Cioè, dopo aver fatto zozzerie terrificanti, cercano di fare qualcosa di buono affinché l'opinione pubblica li veda sotto un'altra luce. Quella che è rimasta invece ad una postazione di privilegio in quanto a crimini ambientali è la April, sempre indonesiana, cartaria, che a Sumatra pure nel 2012 ha disboscato 60.000 ettari. Più o meno è la grandezza di Singapore. E loro, se tu leggi sul loro sito, loro dicono appunto che è facile parlare di deforestazione. Il termine deforestazione è generalmente usato in modo critico, ma le loro operazioni in Indonesia non sono affatto quello che sembra. Loro in realtà fanno commercio, creano posti di lavoro, insomma sempre le solite baggianate che raccontano queste multinazionali zozzissime. Un'altra cosa purtroppo gravissima che sta facendo l'ENI, dopo quello che ha fatto in Africa, adesso sta convertendo questa grossa raffineria, no, che sta a Porto Marghera, e dove lavoreranno 500.000 di tonnellate di olio di palma all'anno, e questo olio verrà ovviamente dal sud-est asiatico. Loro lo dicono, se andate nel sito, e chiunque può verificare, loro proprio lo dicono da dove viene, quindi Borneo indonesiano e malese, e quindi convertiranno 180.000 ettari di foresta per lavorare questo biodiesel, bio che non si sa perché non inquina l'ambiente, sì, ma devasta aree enormi di pianeta, però. E quindi ecco, questa è la novità, è questa, cioè che in Italia purtroppo siamo al primo posto per l'importazione di carta da quella zona, e adesso saremo tra i primi posti in Europa anche di lavorazione del biodiesel. E tra l'altro in questa raffineria non lavoreranno soltanto olio di palma, ma lavoreranno anche grassi animali, oli esausti, microalghe, cioè sarà un posto di lavorazione per biocarburante, che inizierà a fare nel 2014. Queste sono le novità, ecco. Senti, volevamo anche chiederti quali sono le reazioni delle popolazioni locali. Esistono comitati popolari, nativi, esistono internazionali che insomma si occupano di questa problematica? Cioè, c'è qualcosa, c'è del fermento rispetto a questa deforestazione? No, in Indonesia tantissimo. Il problema è che sono sotto stacco, cioè è come se in realtà un paese povero, cioè ricco neanche ricco di risorse, perché questa risorsa dell'olio di palma e della carta viene impiantata lì, non è naturale, perché la palma da olio viene dall'Africa. Quindi sono posti che di risorse loro avrebbero foreste naturali, che quella già è una grande risorsa per l'ambiente, non certo per le industrie però. Quindi quello che hanno fatto per esempio col taglio del legname, che hanno distrutto, hanno fatto scomparire dei tipi di legno, cioè delle foreste sono scomparse, foreste, si parla di foreste millenarie, che ci vogliono centinaia di anni affinché si possa tornare, no, ad avere un minimo di possibilità di rimboschimento, intendo. Le associazioni locali sono associazioni, ma la maggior parte si affiancano ovviamente a grosse associazioni come Greenpeace, perché Greenpeace nonostante tutte le malefatte di altro tipo, in Indonesia comunque mantiene una coerenza riguardo le foreste, per cui ci sono associazioni, ci sono persone che si rifiutano di lavorare nelle piantagioni, ci sono nativi che si vedono costretti ad andarsene spostandosi nelle città, perché ovviamente le foreste non ospitano solo animali, ma ospitano anche tribù, piccoli villaggi. La gente adesso nei posti dove hanno istituito parchi protetti, come può essere Tanjung Puting o il Nyaru Menteng, che è un altro parco, e in particolare dove si occupano di tutela dell'orango, sempre nel Kalimantan centrale, le persone che lavorano lì, quelle che si sono adeguate al sistema, lavorano certo per le piantagioni, ma lavorano nei parchi, quindi come guide, ranger, oppure lavorano all'interno dei care center per oranghi e per specie protette. Però certo, a livello, puoi ben immaginare che a livello proprio di numerico sia molto difficile arrivare a contrastare questi colossi. Cioè, quando l'ENI investe in Indonesia, sono milioni e milioni di dollari che investono in qualcosa che deve essere protetto, quindi non c'è associazione che tenga. Secondo me l'unica cosa che si può fare è far partire queste cose non da lì ma dall'Occidente, cioè siamo noi che dobbiamo rifiutarci di consumare queste cose, e infatti le azioni che sono nate sono quelle che poi hanno costretto per esempio la Japan Paper a rivedere il suo comportamento. Sono state azioni che sono venute dall'Occidente, quindi soprattutto dai brand, dai grandi marchi europei, perché c'è stata una movimentazione di persone che hanno deciso di prendere una posizione, quindi di aderire a un consumo critico. Sì, e poi è chiaro che comunque se i soldi si muovono in Occidente, comunque queste aziende non è che cambiano idea, come già ci parlavi tu prima, non è che cambiano idea per motivi etici o perché hanno una coscienza politica o una coscienza sociale, cambiano idea soltanto quando vedono che i soldi non vengono, quindi è giusto agire dove è che siano i soldi. Sicuramente questa è una buona norma, pur non togliendo comunque legittimità a chi giustamente, vivendo in Indonesia, cerca di fare tutto il possibile affinché cioè cerca di difendersi in ogni modo possibile da questa cosa, per quanto possa sembrare anche poi uno sforzo vano nei confronti di una grande multinazionale come può essere l'ENI o le grandi multinazionali della carta o dell'olio di palma. Sì, ma poi tu pensa che questa cosa è datata già di qualche anno fa, forse ne è parlato anche l'anno scorso, ma c'è Amnesty International che è in causa con queste grosse aziende, perché addirittura anni fa un gruppo di nativi che non volevano spostarsi dalla loro piccola fetta di foresta sono stati costretti ad andarsene, perché gli hanno bruciato il villaggio, hanno ammazzato un bambino, una persona e un adulto, cioè sono morte due individui. E quindi dopo ne è nata una causa internazionale, ma comunque questo è quello che fanno loro. Questo è un teatrino che abbiamo visto un po' in tutte le parti del mondo, no? Ma come in Sud America, sì, con la Coca-Cola, con i sindacalisti. Diciamo che è un po' una tradizione occidentale, poi pure quella di colonizzare i nativi in questo modo. O con la carota, e poi quando non funziona col bastone. Sì, la cosa drammatica però è che questo sistema, cioè questo, tornando all'olio di palma, la cosa drammatica è che tutte le aziende, e io sono vegan e compro e cerco di comprare quando è possibile lontano dai posti canonici come supermercati eccetera, io vedo purtroppo che l'olio di palma in tutti i cibi biologici c'è, ovunque. Cioè se tu compri una cosa vegan, cioè sicuramente l'olio di palma. E anche se, e questa cosa, sai cosa ti rispondono le persone quando tu magari mandi, che ne so, una mail a, a questi produttori, come possono essere anche la Rapunzel, la, che ne so, la Chi, questi grossi produttori bio che vendono tanto in Italia, loro ti dicono che i loro grassi, che il grasso di palma è trattato, che non è idrogenato, che è biologico, che viene da, da colture controllate, che è certificato, cioè chi se ne frega? Io non lo voglio, cioè non lo voglio proprio, e questo è il punto. Cioè noi pensiamo che sia un problema di salute, non è solo un problema di salute perché è un grasso saturo, il problema è che è la morte del pianeta, e purtroppo ci sono sì class action, quello che ti pare, il problema è che questa cosa non, non entra in testa. Addirittura ho trovato un'altra cosa drammatica, cioè, per me è tutto drammatico questo sistema, eh? La Ecor, che ha assorbito Natura Sì, che è uno dei più grandi, penso la più grande catena bio in Italia, loro dicono che a mettere a rischio le foreste non è la coltivazione di palma, ma quella di mais e soia, OGM. Cioè loro puntano sull'OGM dicendo appunto che è quello che rovina. Poi la palma da olio coltivata con metodo biologico dicono che è regolamentata da, da normative europee, e che comunque non è quello che non, cioè io trovo assurdo, nel senso che ti dicono ah ma noi usiamo l'olio di palma perché è incluso tra gli ingredienti, il regolamento biologico non entra nelle scelte alimentari dei, dei cittadini europei, ci dice solo che dobbiamo coltivarlo in maniera biologica. Sì, quindi se tu deforesti e poi però è bio, però va bene per le normative, capito? Questa è una cosa assurda. Infatti hai centrato un punto centrale che è una critica anche a chi in realtà anche spesso ingenuamente pensa che una scelta vegana, una scelta di consumo critico biologico possa essere appunto una soluzione, quando invece dato che ci sono in gioco poteri molto forti e questi tipi di commerci sull'olio di palma, che come tu hai specificato sta in moltissimi prodotti vegan, il problema è molto più alto, no? Non basta essere vegan, non si può essere vegan senza, escludendo una prospettiva che sia ecologica, quindi escludendo qual è il sistema di produzione che viene utilizzato, escludendo appunto la produzione, cioè non escludendo la produzione non a chilometro zero, non si può essere vegan e soltanto e cambiare il mondo in un sistema che è di tipo capitalistico e che si basa sullo sfruttamento di paesi soprattutto in via di sviluppo, quale appunto è l'Indonesia o altri paesi, non è quella la soluzione. E tu hai centrato un grande problema, che è quello che tante volte uno pensa che semplicemente utilizzando prodotti biologici o vegan si sta a posto con la coscienza, e invece non si fa delle domande in più, ma spesso per ingenuità, su da dove derivano quei prodotti che utilizza, che sono sì vegani ma che può darsi che appunto portano alla distruzione di ecosistemi e l'uccisione di animali comunque, perché gli oranghi sono una specie trattanti che vengono uccisi in Indonesia per produrre l'olio di palma. Sì, non so, cioè tu pensa che nel mondo sono le specie in via di estinzione, sono 47.000 e qualcosa, sono quasi 50.000 specie, sono in via di estinzione a causa della, diciamo, della colonizzazione umana. Addirittura adesso, cioè nell'Indonesia erano arrivati a Giava, no? Quindi questo che poi l'Indonesia in realtà non è enorme, l'isola del Borneo è grandissima, ma in confronto a tutto il resto del pianeta l'1% della terra emersa. Stanno arrivando con le coltivazioni, le monoculture anche a Papua Nuova Guinea, che è uno dei pochi posti rimasti incontaminati. Queste sono zone del mondo dove ci sono specie di animali che sono solo lì. Per esempio in Indonesia ci sono delle scimmie che si chiamano, non so, in inglese si chiamano proboscis monkey, sono dalla proboscide e stanno solo nel Kalimantan, cioè solo nell'isola centrale del Borneo. Questi animali, che vivono in parchi protetti ovviamente, perché ormai sono pochissimi, non hanno possibilità di sopravvivenza in nessun altro ambiente. E tra l'altro leggevo poco tempo fa, ho letto che forse è partita un'altra petizione riguardante appunto il parco del Tanjung Puting, che è Kalimantan centrale, e stanno iniziando trasversalmente a disboscare anche questo parco, che è un parco tutelato ormai, sono 30 anni che questo parco è protetto, sono 300.000 ettari dove vivono oranghi, queste scimmie e tantissime specie di uccelli, e lì per esempio stanno iniziando a metterci le mani. Cioè, la cosa purtroppo, al di là del fatto della coscienza, che a quanto pare non è, è un optional, cioè è una sovrastruttura nell'essere umano, e il fatto di, penso, di informarsi è talmente alla portata di tutti, che anche il discorso di salute è veramente superfluo, è superficiale, perché la nostra salute costa, a un prezzo, sì, a un prezzo troppo alto. Cioè, se no andiamo a finire pure a fare il discorso della sperimentazione animale, cioè no, che lì dove l'uomo deve vivere nel benessere, nella salute, il prezzo non ha importanza quale sia. L'importante è che l'uomo abbia il suo spazio, ecco. E questa è la cosa inaccettabile. Sì, poi credo, a me quello che, diciamo, che più mi fa rabbia della situazione come quella indonesiana è che l'uomo stia facendo una vera e propria guerra contro quel poco che è rimasto di selvaggio, di naturale che c'è nel mondo, visto che poi anche tu accennavi anche alla questione di Papua, cioè comunque sono dei posti in cui non solo la natura animale non umana è selvaggia, ma ci sono anche cioè proprio tribù di esseri umani che sono selvaggi e che comunque hanno una vita che sicuramente sarà contraddittoria, piena di contraddizioni. Per carità, sì. Per carità, però comunque sicuramente ha una diciamo una prospettiva che non è di morte come la prospettiva di vita occidentale, o comunque la prospettiva di vita umana anche non occidentale ormai di tutto il mondo. Cioè è proprio un altro modo di vivere, un modo di vivere che non è quello di annientare tutto quello che ti circonda per il tuo interesse, ma è quello casomai di appunto prendere da quello che ti circonda per viverci insieme. Quindi secondo me, cioè nel senso, quello che più mi fa rabbia è che comunque ci sia un tentativo proprio di annientare tutto quello che è rimasto da questo punto di vista, è un tentativo che comunque sta avendo i suoi frutti, visto che ormai di zone selvagge sulla terra ce ne sono rimaste pochissime. Sì, ma poi la cosa, a parte che ti fa arrabbiare perché ci sentiamo impotenti, perché siamo pochi in realtà contro questo sistema, il problema è che è contro i loro interessi, perché una volta deforestata anche l'Indonesia, che è l'ultimo grande polmone, cioè tu pensa che i grandi alberi stoccano la metà, il 50% del CO2 presente nell'atmosfera. Quindi CO2 prodotto ovviamente da, penso, il 70% dall'uomo, quindi da allevamenti intensivi, non dall'uomo direttamente, ma insomma provocato dall'uomo, diciamo, no? Quindi allevamenti intensivi, addirittura, cioè questo lo saprete pure voi, perché se ne parla spesso, gli allevamenti producono molto più CO2 di tutte le macchine, di tutte le industrie sulla terra, quindi comunque è sempre un problema di sovrasfruttamento, ecco, e di esagerazione, di abuso. Alla fine, cioè, anche coloro i quali sfruttano la situazione economica in questo breve lasso di tempo, a lungo termine non ne gioveranno, perché dovremo costruire campane di vetro per poter vivere su questo pianeta. No, è chiaro, anche perché poi comunque ci troviamo nei prossimi anni a una, ci troveremo di fronte a una delle crisi più importanti della storia, credo che sarà quella della fine del petrolio, e comunque bisognerà fare i conti. Io spero arrivi presto, io spero sì, anche presto. Da un lato anche io, dall'altro purtroppo c'è da dire che per prendere gli ultimi rimasugli di petrolio, cioè, stanno facendo delle cose, sì, stanno facendo, aberranti, sì, cioè. Quindi non si sa mai per chi ti fare, sì, verrà. D'altra parte vorrei dire anche che c'è tutto quanto il fenomeno dei biocarburanti e delle biomasse, che si vede come grandi alternative, che in realtà è una distruzione, come appunto tu ci racconti, ma in tanti altri campi, pazzesca. E quindi questa fine dell'era del petrolio sicuramente porterà a una distruzione in tantissimi altri campi. Quindi non risolviamo niente se rimaniamo legati agli stessi paradigmi, non risolveremo niente. Questa crisi si porterà a una crisi, si ritroverà un modo per sfruttare sempre di più, camperemo come specie umana in altri prossimi a pochi anni in più, distruggendo tutto il resto delle specie più o meno. Quindi dobbiamo ora mettere in discussione tutto ciò, questo sistema di sviluppo, questo sistema di volto al profitto alla base di tutto quante le lotte che facciamo ambientali, per la liberazione animale e quant'altro. Assolutamente. Poi tra l'altro leggevo tempo fa, e comunque sono 10 anni che esiste, è un'organizzazione di scienziati, aziende, ONG, università, studiosi, ricercatori, che si chiama Global Footprint Network, e loro si occupano di monitorare la, diciamo, l'impronta umana sul pianeta, e quindi come si utilizzano le risorse, calcolano ogni anno ciò che la Terra rigenera, quindi in base ai consumi ogni anno c'è il Overshoot Day, Earth Overshoot Day, quindi praticamente il giorno in cui smetti di consumare gli interessi e inizi a consumare il capitale, per intenderci. Ogni anno questo giorno si anticipa, quindi noi il 20 agosto siamo entrati in overshoot, per cui dal 20 agosto al 31 dicembre noi stiamo consumando le risorse dell'anno prossimo, e ogni anno questa cosa scala, è sempre prima, quindi che ne so, l'anno prossimo sarà a metà agosto e così via. Quindi tu pensa in 10 anni quello che può succedere, cioè alla fine non avremo più risorse da consumare, perché non ce ne sarà abbastanza, siamo 7 miliardi, non so, forse hanno calcolato 20 miliardi fra 10 anni, non lo so, insomma una cifra terrificante proprio. Per cui anche questo, al di là dell'essere vegan, della coscienza, dell'ambiente, dell'ego solidale, cioè proprio una follia. Cioè mi sembra l'unica strada logica, mi sembra questa. Il problema è che nel piccolo quotidiano queste cose non pesano, invece dovrebbero pesare. Cosa secondo me, adesso mi ha dato spunto a questa riflessione, che è comunque un'analisi interessante, è incominciare a non considerare tutto il resto come risorsa, ma considerare come altri esseri viventi, l'ambiente con cui appunto si deve condividere la vita, il pianeta, e con cui si deve cooperare, ecco, non nella funzione di risorsa. Questo può essere l'approccio. Però infatti io facevo l'esempio, anche considerando da un punto di vista meramente economico, è svantaggioso. Cioè io ti faccio, diciamo che faccio la parte di una persona che non ha coscienza, non ha etica, dico però non mi conviene comunque, non conviene. Se dobbiamo parlare come loro, se dobbiamo parlare in termini economici, è comunque è controproducente, perché per esempio in Indonesia con questa deforestazione selvaggia negli ultimi 20 anni si è prodotta una criminalità terrificante, mafia, cioè in realtà il sistema ha collassato sotto l'illegalità, sotto il peso dell'illegalità, perché queste cose producono illegalità, è inevitabile. Per questo vi dico, è anche dal punto di vista economico, apparentemente lì dove si creano industrie, si dà lavoro alla gente, i paesi diventano ancora più poveri. In questo senso intendevo. È ovvio, certo, che per certo. me la risorsa non, cioè nel senso, io non ragiono in termini di sfruttamento, ma se voglio entrare nella testa di questi malati di soldi, di potere, devo ragionare così, cioè devo cercare di capire anche il modo. E infatti probabilmente, anche se non sono d'accordo, e li detesto lo stesso, quelli della Japan Pen Paper, alla fine dico vabbè, alla fine hanno smesso, certo hanno devastato il 70% di quello che è una cosa, hanno fatto veramente delle cose gravissime a livello, hanno cause aperte da anni per quello che hanno fatto, però hanno smesso. Sì, sì. Quindi, ma io non mettevo in dubbio che appunto avevamo lo stesso punto di vista, assolutamente, stavo dando una chiave di lettura diversa per i lettori, un suggerimento per cambiare tutto questo sistema che comunque è distruttivo per tutti gli esseri viventi che condividono il pianeta. Poi penso che la pensiamo uguale su questo, cioè, so che la pensiamo uguale su questo punto di vista. Sì. No, il problema penso che sia difficile da divulgare, perché sono canali ridotti. Mi è capitato di vedere forse un paio d'anni fa un documentario sul Borneo, dove lo speaker si sentiva, che vedevano le immagini, il parco, le specie protette, bellissimo. Poi a un certo punto si parlava di palme, si parlava di conversione, e la voce sotto diceva producono sì purtroppo danni, però purtroppo è necessario. A me questa frase, detta in prima serata, l'ho trovata catastrofica, perché una persona che guarda un documentario in televisione alla RAI e sente una voce sotto che ti dice che quella cosa lì che stanno facendo è purtroppo necessaria, come, che ne so, amputare una gamba in cancrena, cioè quello secondo loro è necessario, purtroppo, capito? E questa è la coscienza comune. Pensano che sia una cosa irrinunciabile, la carta, bisogna produrne miliardi di tonnellate l'anno perché se ne deve consumare sempre di più, quindi il problema è proprio alla base, cioè il consumo che va tagliato. Certo. Va bene, ascolta, noi insomma, se non c'hai niente più da aggiungere, ti saluteremo, anche perché il nostro tempo sta quasi per terminare. Sì, ok, siete un overshoot pure voi. Va bene. Grazie. Sei stata bravissima, ti ringraziamo, insomma. Grazie a voi, mi fa sempre piacere parlarne. Ci sentiremo per i prossimi aggiornamenti fra un po' di tempo. Speriamo buone notizie. Sì. Speriamo. Ciao. Grazie e buon lavoro. Grazie. Buona grazie giornata. A te, ciao. Ciao. A presto. Ciao. Allora, torniamo in onda dopo una canzone velocissima, perché appunto il tempo è tiranno. Sta per scadere. Okay, sta per scadere. E niente, vi comunichiamo che il blog antispefa.noblogs.org, un blog interessante sicuramente da seguire, che parla specialmente dei tentativi di infiltrazione che ha la nuova destra all'interno dei movimenti antispecisti animalisti, ha pubblicato un articolo che è la traduzione di un contributo che hanno fatto i compagni di Clément Méry. Come si dice? Non so il francese, però mi piace. Tu lo sai il francese? Sì, però adesso non lo vedo letto, quindi non... Clément Méric. No. Sì, Clément Méric. Vabbè, l'ho detto bene, l'ho detto bene. Un hai un po' più chiuso. Che è quel ragazzo, il ragazzo che è stato ucciso lo scorso 5 giugno da un nazista in Francia. E il comitato per Clément, appunto, ha tirato su un blog nel quale parlano di vari argomenti, e la traduzione del primo post che ricostruisce ricostruisce appunto i fatti dell'uccisione di Clément, sono appunto tradotti sul blog antispefa.noblogs.org, quindi poi metteremo sicuramente anche il link sul nostro blog, però se no, se andate sul sito antispefa.noblogs.org trovate questo contributo abbastanza interessante. Bene, poi insomma passiamo un attimo a quelle che sono le prossime iniziative, e andiamo a Milano e Linate, dove ci sono state indette per novembre le giornate di mobilitazione contro la vivisezione, e potete trovare su informazione.info tutta sia il flyer che appunto tutta la descrizione dei vari appuntamenti che ci saranno. E vi anticipiamo insomma per venerdì 8 ore 11:30 presidio davanti agli uffici KLM a Segrate, e alle ore 20 una pericena e discussione sulla vivisezione, liberazione animale e critica al dominio e proiezione di Maximum Tolerate Dose presso il Circolo Malfattori in via Ripa Ticinese 83. Sabato 9 alle 15 sarà un presidio all'aeroporto di Linate, all'ingresso principale. Domenica 17 alle 15 il presidio all'aeroporto Malpensa, al Termina 1 all'ingresso partenze. E venerdì 22 alle ore 15 presidio davanti alla sede di Arlan a Bresso in via Meucci 8. E tutto questo è stato insomma viene portato avanti dalla Lepre, e potete andare appunto anche sul loro blog, lalepre.noblogs.org, dove troverete insomma gli appuntamenti. Sì, una piccola aggiunta per chi non lo sapesse o non se lo ricordasse: questa campagna è soprattutto proiettata a contrastare le compagnie aeree che ancora deportano animali da paesi quali il sud-est asiatico e per la vivisezione, che sono essenzialmente poi primati, e KLM è una di quelle compagnie che ancora continua questo traffico. E poi andiamo insomma in Catalogna invece, dove vi ricordiamo insomma dove c'è tutto il movimento contro la MAT, e ci sarà un incontro internazionale contro le nocività il 13, il 14 e il 15 dicembre. Beh, molto villà, però è comparso anche questo su informazione.info, quindi insomma se volete andare a vedervi il manifesto e quello di cui si discuterà. Invece questa domenica vi ricordiamo a Cesena ci sarà l'incontro post incontro di liberazione animale a seguito appunto dell'incontro che è stato fatto a Venaus. Ci sarà un nuovo incontro insomma un po' per parlare, per riflettere di quello che sono state le discussioni portate avanti durante la 3 giorni, e l'appuntamento è presso lo spazio libertario Solo e Baleno a Cesena dalle ore 11 alle ore 18. E un ultimo appuntamento invece a Roma: ci sarà una pericena per la cassa anarchica di solidarietà anticarceraria Aracnide, e l'appuntamento è al Rewild Club in via Giovannipoli 18. Mettiamo una canzone e poi concludiamo. They're out of luck. uphold. Tastes so good, can't let it go. Virgin blood for the vampire in you. Screams for silent long before the flesh touches your tongue. Slice it up. Uniamo gli Universal Pop Lab, sebbene questa sia una canzone bellissima che risale agli albori della nostra trasmissione, ma comunque va bene, sfumiamo così le canzoni e continuiamo la nostra trasmissione. Sì, diciamo anche due avvenimenti recenti. Infatti il 1° novembre è stata la giornata mondiale vegan e ci sono state una serie di appuntamenti in tutte le piazze d'Italia per appunto denunciare i vari aspetti dello sfruttamento animale. Invece poi vogliamo ricordare anche un altro evento del 30 ottobre che trovate sul sito www.essereanimali.org. Cioè la liberazione di due maialini maialini appunto che sono stati liberati da Essere Animali, che appunto da poco è stata rilanciata, questi maialini appunto sono stati presi da un allevamento intensivo e sono stati portati ad una nuova vita, ovviamente. E detto questo, non so se dobbiamo aggiungere qualche altro appuntamento che ci siamo dimenticati oppure possiamo passare a ricordare i nostri contatti. Allora, la nostra mail è lagazzaladra@inventati.org. Invece il nostro blog è, dai, dillo tu che te lo ricordi, radiopossum.noblogs.org. Difficile, eh? Molto. Vabbè, basta. Poi vi ricordiamo ovviamente i contatti della radio, che sono www.ondarossa.info il sito, 06 49 17 50 per chi volesse telefonarci, e poi vi ricordiamo come sempre che la radio non campa d'aria e quindi sottoscrivete al conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma, oppure per chi volesse o potesse sul sito www.ondarossa.info attraverso PayPal. E va bene, ricordando che lunedì prossimo la nostra trasmissione verrà anticipata dalle 9 alle 10, vi salutiamo. Sarà una puntata strabiliante e spettacolare. Con un nuovo palinsesto. Con delle novità importantissime che non vi stiamo a dire. E va bene, allora vi salutiamo e come sempre un ultimo saluto è per tutti coloro che sono privati della loro libertà personale. Siano essi umani e non. Ciao. Ciao. Ciao. Red carpet.